Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 5 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora continuiamo a raccontare anche in questo agosto la cronaca economico-finanziaria. A livello borsistico, già ricordavamo peggioramento di tutte le borse dopo Wall Street. Wall Street perde un punto percentuale, Francoforte, che è la peggiore, perde il 2,4, Parigi meno 1,5, Londra meno 1,2, Milano oggi non riesce a distinguersi come ha fatto ieri ed è in linea con i cali, meno 1,3% su tutti gli indici, con alcuni bancari ancora positivi, penso al Monte dei Paschi più 1,3%, Mediobanca mezzo punto percentuale di rialzo e soprattutto UbiBanca che tocca i 10 euro per azione in rialzo dell'1,8%. Ebbene, anche Terna più 1,4, Parmalat più 0,7 e positiva è pure Mondadori di uno 0,2%. Tutto il resto, per quello che riguarda i titoli a maggiore capitalizzazione, è negativo, con vendite dopo i rialzi di ieri soprattutto su Buzzi Unice meno 4,91, ci sono anche i conti oggi, e in pregilo meno 3,36%, Italcementi meno 3%. Poi cede parecchio ST Microelectronics il 4%, Atlantia il 3,6%, ancora Campari sotto pressione perde il 3%, Pirelli meno 2,8%, Prismian meno 2,5%, come Telecom Italia. Il 2% lo perdono anche Autogrill ed Eni, Unicredito e Fiat, ma anche Mediolanum perdono l'1,8%. Euro leggermente più debole, ma sempre a quota 1,41. Il petrolio invece poco fa è arretrato sotto i 70 dollari al barile, a 69,5 dollari per la precisione, ma andiamo subito sul tema del petrolio, perché nel 2010 è previsto un aumento della domanda mondiale di petrolio, ma vi sarà un calo di quello prodotto dai paesi OPEC, compensato da quello che si capisce in parte da quello dei produttori non OPEC. Lo ha affermato la stessa organizzazione che riunisce i maggiori produttori di petrolio nel suo rapporto mensile. Questo per quello che riguarda il petrolio. La benzina, la tregua sui prezzi sembrerebbe reggere, ma sono stabili intorno a 1,339 euro al litro. Di cosa ci occuperemo oggi? Di nuovo di redditi, di disparità geografica dei redditi, non tanto e non solo per tornare sulle gabbie salariali, ma anche perché oggi sono usciti nuovi dati su quanto costa vivere al nord, per esempio per i single, rispetto che al sud. La Banca d'Italia ha fornito altri dati su mutui e prestiti, emerge come i mutui siano più, i tassi sui mutui, sui prestiti bancari siano più alti al sud e anche in maniera consistente rispetto al nord del paese, così come sempre la Banca d'Italia ieri sera aveva fatto notare come è vero che vi è una disparità nel potere d'acquisto, nel costo della vita, scusatemi, tra nord e sud, ma vi è anche una disparità, questa volta a vantaggio del nord, nella busta paga media, che al sud è inferiore di un 15%. Ricordo il dato della Banca d'Italia diffuso la settimana scorsa, che fotografava un costo della vita al nord più alto di un 16%. Sono dati quasi simili. Comunque, il tema resta: che tipo di contratti, di salari dare in base alla collocazione geografica? Molti dicono no, in base al tipo di impresa e l'andamento dell'impresa. Ne parleremo in apertura. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi, oltre alle borse, tratteremo anche altri temi, tra cui un approfondimento sui dati diffusi ieri, che abbiamo ricordato, sull'andamento del traffico aereo, soprattutto per quello che riguarda i dati relativi agli aeroporti italiani. Rapidamente le altre notizie in breve. Visto che ne parlavamo commentando il mercato, oggi è uscita la trimestrale di Buzzi Unicem, primi 6 mesi dell'anno con un 22,6% nel giro d'affari, nei ricavi, che sono scesi a 1 miliardo e 340 milioni di euro. Anche l'utile è stato in calo netto del 73% a 55 milioni di euro. cresce più delle attese, passiamo all'economia internazionale, la produttività negli Stati Uniti. Nel secondo trimestre ha fatto un più 6,5% contro un'attesa di un più 5,5%. Le scorte all'ingrosso americane però hanno fatto un meno 1,7% dopo l'1,2 di maggio, un dato migliore delle attese degli analisti. Il fatto che le scorte diminuiscano è un dato positivo, perché meno scorte ci sono, più vuol dire che l'economia sta riprendendo, ragionando diciamo in maniera un po' approssimativa, ma questo è il motivo per cui il dato viene considerato migliore dagli analisti. Poi c'è una cosa interessante che riguarda i laureati americani, che guardano con sempre maggiore insistenza alla Cina, visto che ormai la disoccupazione in America è a due cifre, ampiamente sopra il 10%. Un numero crescente di laureati americani scommette sulla Cina, vi si trasferisce, secondo quanto scrive oggi il New York Times, anche quando non conosce la lingua. I motivi sono l'offerta di lavoro, il boom economico e il basso costo della vita. Nel frattempo dalla Cina arriva la notizia che sia le esportazioni che le importazioni hanno continuato a scendere nel mese di luglio, nonostante l'impatto positivo della manovra, diciamo, anticrisi messa in piedi dal governo di Pechino, stimoli massicci sull'economia cinese. Eppure le esportazioni hanno fatto un meno 23% a luglio rispetto a un anno prima e le importazioni hanno fatto un meno 15% sempre rispetto a luglio del 2008. E poi letteralmente crollato il PIL russo nel secondo trimestre del 2009, meno 10,9%, in aumento però, questa è la buona notizia, il meno 10,9% è relativo a un anno prima. Sappiamo però che per capire come si sta muovendo l'economia e quali sono le prospettive più interessanti in questo periodo, guardare al mese su mese che non all'anno su anno. Ebbene, rispetto al trimestre precedente c'è un più 7,5% nell'andamento dell'economia russa. Inflazione a zero in Germania anche a luglio e meno 0,5% rispetto a un anno prima, rispetto a luglio del 2008. Per la prima volta da 22 anni a questa parte in Germania l'inflazione è quindi negativa. Sempre dalla Germania una notizia che sembrerebbe chiudere un capitolo che si è riaperto. La vicenda è sempre quella di Opel. Nei giorni scorsi, da numerose fonti di stampa e dichiarazioni in Germania, si è sembrata riaprire la campagna per chi sarà l'acquirente di Opel. Non sembrano contenti molti soggetti tedeschi della scelta di Magna, quindi della cordata austro-russo-canadese. Oggi però il cancelliere Angela Merkel ha detto in un'intervista al canale tedesco RTL, ha detto di preferire nettamente Magna come acquirente di Opel. Spostiamoci in Italia, perché il volume dei finanziamenti stanziati attraverso il fondo di garanzia, quello che assicura il credito alle piccole e medie imprese, ha fatto nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi, il 176% in più, un vero e proprio boom del fondo di garanzia. Tra l'altro anche gli stanziamenti sono aumentati, sono stati portati da 500 milioni a 1,5 miliardi fino al 2012, e secondo il ministro Scajola i dati recenti dimostrano una forte dinamica espansiva sia in termini di domande presentate che di domande accolte. E dopo che ieri Intesa San Paolo aveva aderito all'avviso comune sottoscritto dall'ABI, dal governo, dalla Confindustria per sospendere i debiti delle piccole e medie imprese verso le banche, la cosiddetta moratoria sui debiti delle imprese, dicevo, ieri Intesa San Paolo ha aderito alla misura. Oggi è la volta di Unicredit, che ha firmato l'accordo sui debiti delle piccole e medie imprese. Ricordo che questo accordo prevede il congelamento per un anno delle rate dei mutui e del leasing, e poi le imprese potranno chiedere il prolungamento di 9 mesi delle scadenze del credito a breve, e poi è previsto anche un aiuto finanziario per le piccole e medie imprese che decidono di ricapitalizzarsi. E noi invece torniamo sul tema delle disparità economiche, quanto a reddito, potere d'acquisto, costo della vita tra nord, delle volte si dice centro-nord del paese, e sud, tema che ha anche un suo cotè politico, vista la proposta della Lega di tornare a ragionare di gabbie salariali. L'altro ieri il Presidente del Consiglio Berlusconi aveva aperto all'ipotesi, dicendo va bene ancorare i salari al costo della vita. Oggi, come ricordavo, nuovi dati e nuovi dati sempre della Banca d'Italia. La Banca d'Italia infatti oggi fotografa le differenze tra i costi nel mutuo per la casa o per un finanziamento all'impresa, a seconda che la casa o il finanziamento all'impresa si trovi nel centro nord del paese o nel sud del paese. Le differenze sono a svantaggio del nostro mezzogiorno, perché praticamente i valori più alti si trovano tutte nelle regioni del sud. La punta è in Puglia, il 4,96% per quello che riguarda il TAEG, il tasso annuo effettivo globale sui nuovi prestiti a medio e lungo periodo, e il minimo si trova in Piemonte, il 3,9%, quindi un punto percentuale tra il massimo e il minimo, la cosiddetta forchetta. Per quello che riguarda poi il costo del lavoro, oggi lo Svimez fotografa anche qui un andamento a due velocità: nel sud negli ultimi tre anni è diminuito dello 0,4%, al nord è cresciuto dell'1,2%. Sempre lo Svimez, dicendo no, insomma, alle gabbie salariali, ricorda come il costo del lavoro nel nostro mezzogiorno, il differenziale del costo del lavoro tra nord e sud, sia intorno al 26% nelle industrie e stia anche aumentando. Il tutto in una giornata in cui, in questo profluvio un po' agostano di dati sulle differenze tra nord e sud, arriva anche lo studio della Camera di Commercio di Monza e Brianza, che scopre come per un single, per un trentenne, vivere a Milano costi il 53% in più rispetto a Bari e il 56% in più rispetto a Palermo, solo il 25% in più rispetto a Napoli. Devo dire che, a mio avviso, il dato più interessante è quello della Banca d'Italia, che sembra quasi dare un colpo al cerchio e uno alla botte, perché se da un lato ha fatto notare la settimana scorsa come il costo della vita sia al nord più alto del 16% rispetto al sud, poi ieri ha fatto notare come gli stipendi siano al nord di un 15% più alti rispetto al sud. Ieri ne abbiamo parlato con diversi esperti, si è toccato anche il tema del pubblico impiego, ecco perché ringrazio il ministro alla pubblica amministrazione e innovazione Renato Brunetta, nostro ospite oggi. Buonasera ministro. Buonasera a voi. Prima le faccio una domanda da economista, poi veniamo al suo ruolo invece nell'esecutivo. Vorrei capire una cosa e poi andiamo avanti sul ragionamento. Secondo lei è solo una così polemica querelle ferragostana, come dicono alcuni, oppure, chiedo all'economista, c'è un ragionamento serio al di là, diciamo così, del colore politico nel ragionare di disparità nord-sud, di ipotesi di gabbie salariali e quant'altro? Ma vede, il mercato del lavoro italiano ha bisogno di flessibilità, le relazioni industriali italiane hanno bisogno di flessibilità e la contrattazione italiana ha bisogno di flessibilità. Le gabbie salariali, che sono morte alla fine degli anni 60, lo ricordo, erano un accordo tra le parti, non erano una legge, una norma, davano rigidità, una rigidità pregiudiziale che non corrispondeva alle esigenze di flessibilità che si sarebbero poi richieste negli anni, nei decenni successivi. Quindi tornare alla rigidità, cioè a aree rigidamente definite in termini di dinamiche salariali, non solo è anacronistico, ma sarebbe un gravissimo errore. Il mercato del lavoro italiano, ripeto, e la contrattazione italiana ha bisogno di flessibilità a caccia di efficienza. L'efficienza si raggiunge correlando i salari alla produttività, e la produttività ingloba anche le differenziazioni territoriali in termini di costo della vita. Ed è la contrattazione, cioè il mercato, a stabilire dove si forma la produttività e come distribuire in maniera efficiente la produttività e i guadagni di produttività. Tutto questo non è avvenuto sufficientemente negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90, perché per una nostra tradizione di relazioni industriali i contratti nazionali hanno fissato minimi contrattuali troppo invasivi, troppo pesanti, talché insufficienti al nord, dove di solito la produttività è più alta e quindi si cerca di pagare di più dei minimi, magari in nero, e sono troppo pesanti al sud, dove la produttività è più bassa e dove si contravviene ai contratti nazionali sempre in nero con l'occupazione relativa. Quello di cui avremo bisogno è contrattazione aziendale con pesi rilevanti e non molto limitati come sono oggi, fortemente incentivata, contrattazione territoriale dove le aziende non sono di taglia sufficiente, provinciale, di bacino di manodopera, di distretto, addirittura regionale come adesso avviene per quanto riguarda gli artigiani, ad esempio. E cioè dare molto più spazio, molto più peso alla contrattazione decentrata. Addirittura, io feci una proposta un decennio fa, scegliere, lasciare alle parti la scelta, una sorta di shopping contrattuale, se avere solo contratti localmente definiti, aziendalmente localmente definiti, prescindendo dal contratto nazionale, o laddove i settori sono fragili o i territori sono fragili, avere dei minimi contrattuali nazionali in maniera tale da comunque avere una garanzia che comunque la contrattazione tuteli il mercato del lavoro e tuteli le relazioni industriali. Pensare di avere contratti nazionali pesanti per tutti i settori, per tutto il territorio italiano, è un'ipocrisia che ha irrigidito il mercato del lavoro e che ha prodotto tanto nero al nord quanto nero al sud. Quindi, e qui vengo al suo ruolo di ministro della funzione pubblica, come si chiamava una volta. Perché? Perché noi ieri ricordavamo molto e parlavamo molto del settore privato e si ricordava molto l'accordo firmato, se non ricordo male, il 22 gennaio tra le parti sociali e i sindacati, tranne la CGIL, che in sostanza, lo dico in maniera un po' imprecisa, guardi che quell'accordo riguarda tanto pubblico che sì, privato. Sì, perché lo scorso 30 aprile poi voi avete firmato anche. No. La cosa è un po' più articolata, mi permetto di prego, mettere. Prego. Allora, l'accordo del 22 gennaio è un accordo che vale tanto per il settore pubblico quanto per il settore privato. Difatti dentro quell'accordo c'è anche la mia firma. Perfetto. Poi questo accordo è stato declinato con una sorta di protocollo aggiuntivo, operativo, tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico nazionale. Manca solo la componente, come dire, regionale, perché come lei ben sa il settore pubblico è diviso sostanzialmente in due, lo Stato, i ministeri, certo, agenzie eccetera eccetera, poi regioni, province e comuni, che hanno una loro pesante autonomia dopo l'approvazione del titolo quinto, della riforma del titolo quinto della Costituzione. Questa seconda parte manca ancora, però il meccanismo è assolutamente simmetrico a quello del settore privato. In ogni caso il modello contrattuale che è stato siglato il 22 gennaio, come giustamente ricordava lei, riguarda tanto il settore pubblico quanto il settore privato, cioè l'ampiezza triennale della contrattazione, il riferimento non più all'inflazione programmata ma all'indice europeo depurato dei prezzi energetici e così via, è valido tanto per il settore pubblico quanto per il settore privato. L'unica cosa che il datore di lavoro pubblico è un datore di lavoro un po' particolare, che deve fare i conti con la finanza pubblica, che sia essa a livello nazionale o che sia essa a livello nazionale con derivazioni regionali, provinciali e comunali. Ecco, qui volevo arrivare, no, citavo il 30 aprile perché ho trovato anche sul vostro sito il 30 aprile come riferimento, ma va bene, il quadro non cambia, cioè c'è questo accordo, lo dico a chi è in ascolto, che riguarda settore privato e settore pubblico, in cui si dà più forza alla contrattazione aziendale, quella che si chiama con un tecnicismo di secondo livello, e l'accordo nazionale resta più una cornice dentro cui poi contrattare. Poi, come ricordava il Ministro, l'abbandono dell'inflazione programmata, nuovo metodo di calcolo, durata triennale, in modo da non dover andare a rifare i contratti in tempi troppo brevi. Le chiedo, questo vuol dire che è già possibile per il pubblico impiego, diciamo la parte statale, perché lei ci ha chiarito come la parte regionale, ma anche ancora l'appello, ma la parte statale, avere stipendi diciamo, più collegati anche alla produttività a seconda delle regioni, perché molti ascoltatori ci hanno chiesto a 349-238-6666, va bene, se un operaio lavora in un'impresa che è utile, che cresce, probabilmente riuscirà ad avere dei benefici, dei bonus, degli incentivi. Diverso è il caso del dipendente del ministero o del poliziotto che, lavorando a Milano, ha il costo della vita di Milano. Se lavora a Palermo, come riconosce anche lo Svimez, ha un costo della vita diverso. Togliamoci dalla testa il costo della vita, per favore, perché non è un buon indicatore, perché Palermo città è diverso da Palermo periferia, Palermo è diverso da Enna, e quindi bisognerebbe fare tanti contratti quanti sono le aree omogenee dal punto di vista del costo della vita. Siccome questi dati non esistono, togliamoci dalla testa, per favore, questo punto di riferimento. Secondariamente, come dicevo prima, la metodologia e il modello contrattuale è lo stesso tra pubblico e privato. Per quanto riguarda la parte produttivistica, chiamiamola così, cioè di efficienza, sì, di premialità, qui soccorre la legge 15, perché il pubblico impiego è regolato da leggi. La legge 15 è la legge che porta il mio nome, che è stata approvata il 4 di marzo e che prevede una serie di modalità per premiare il merito e per premiare la produttività, sia essa che si formi a Palermo o in Val d'Aosta. È valido ovviamente per tutta Italia e questo può differenziare tranquillissimamente i salari. Una volta dato il salario base, che è il salario nazionale, chiamiamolo così, sì, dopodiché a livello tra virgolette aziendale, nell'accezione ovviamente del lavoro pubblico, aziendale può essere ovviamente di area, di territorio, di ufficio, di dipartimento, a seconda delle tipologie delle amministrazioni, lì ci sarà la differenziazione, e non è poco, perché stiamo parlando mediamente di un 20% del salario complessivo, legata proprio alla produttività e alla premialità. Questa è la grande novità, che tra l'altro a me piacerebbe fosse introdotta anche nel settore privato, perché neanche nel settore privato c'è una differenziazione così ampia, perché se nel settore privato si fa la contrattazione decentrata, benissimo, ma poi questa contrattazione decentrata non è sempre capace di distinguere all'interno dei lavoratori di un'azienda quelli più bravi da quelli meno bravi, e cioè si dà il premio a tutti, cosa che non sempre, come dire, cioè, è equa e efficiente. Lei ci sta dicendo, per usare l'esempio che facevo prima, che se l'ufficio passaporti, uso a titolo assolutamente esemplificativo, della questura X lavora meglio di un'altra questura, ci sarà un riconoscimento anche remunerativo in questo? All'interno dell'ufficio passaporti della questura X, magari in maniera differente dalla questura Y, certamente. E questa è, come dire, la grande novità. Noi pensiamo a tre fasce: una prima fascia del 25% che assorbirà il 50% di tutto il salario accessorio, cioè il salario premiale, chiamiamolo così. Poi ci sarà una seconda fascia del 50%. Che assorbe l'altro 50% delle risorse accessorie, e poi ci sarà una terza fascia destinata ai fannulloni, i quali non avranno assolutamente salario accessorio. Quindi i 25 su 100 dipendenti, 25 avranno la maggior parte, la metà di quello che è a disposizione come salario, come bonus, lo chiamo così. E l'altro 50%, cioè la media. E poi un quarto non avrà niente, perché diciamo lavora poco, per usare. Naturalmente si lascerà poi alla contrattazione quel minimo di flessibilità che serve per dire non è 25 ma è 30 oppure 20, oppure l'ultimo 25%, visto che sono tutti bravi, non è 25 ma 20, e che ci sarà ovviamente un po' di buon senso. Però l'unica cosa da evitare è che ci sia todos caballeros, vale a dire come è successo finora, che c'è tutta la parte premiale nel pubblico impiego era distribuita in maniera uguale a tutti. Ai fannulloni e a quelli che si sobbarcavano anche il lavoro dei fannulloni. Devo dire questa avendo un buon esempio anche il settore privato, perché neanche nel settore privato si è mai riusciti a distinguere dentro un'azienda, rispetto alla contrattazione aziendale, le differenti tipologie di lavoratori, tra quelli più bravi e quelli meno bravi. Quindi da Stakhanov a Oblomov, diciamo, in mezzo, cioè, per usare. Vabbè, andiamo sulle ultime due domande che ho per lei. Ministro, per quello che riguarda il ruolo dell'esecutivo, del governo, perché questo federalismo contrattuale che lei in qualche modo ci ha tracciato può prevedere anche un intervento del governo. Voglio dire, molto banalmente, si potrebbe pensare l'intervento in questo caso potrebbe essere fiscale, cioè c'è una parte... Precisiamolo bene, le gabbie salariali erano un raccordo privato tra parti, il governo non c'entrava assolutamente niente, fu fatto tra le parti e fu cancellato dalle parti, fatto nel 54, cancellato nel 69, era un accordo. E quindi il governo non c'entrò nulla allora, anche se ovviamente era attento a quel che succedeva, come il governo non c'entra nulla adesso, né potrebbe entrare, c'entrare, per cui tanto un discorso agostano, il governo introduce le gabbie salariali, non esiste in nessuna maniera, perché in nessun paese di economia di mercato il governo definisce i salari. Per fortuna, sì. Per fortuna, ci mancherebbe altro. Quello che il governo può fare, se pensa che la contrattazione di secondo livello, la contrattazione aziendale, la contrattazione decentrata, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, sia come dire, un bene pubblico, vale a dire sia un qualcosa da perseguire, perché flessibilizza il mercato del lavoro, perché aumenta l'occupazione, perché migliora la distribuzione del reddito, perché migliora l'efficienza, perché migliora la produttività, se il governo pensa che la contrattazione decentrata sia un bene, allora può destinare a questo bene degli incentivi fiscali e contributivi, e cioè dire: voi fate quello che alle parti, voi fate quello che volete, sappiate però che se una parte rilevante della vostra contrattazione sarà destinata alla contrattazione decentrata, io vi premio, cioè premio detassando quella parte di salario contrattato a livello aziendale, territoriale, di distretto, regionale, provinciale, eccetera eccetera. Poi lo volete fare? Lo fate. Non lo volete fare? Non lo fate. Io metto a disposizione questa fiscalizzazione, chiamiamola così, e stiamo a vedere quel che succede. Se, come dice la letteratura, l'aumento della contrattazione decentrata migliora l'efficienza del sistema, lo rende più flessibile, aumenta l'occupazione, e con l'occupazione aumenta anche il gettito fiscale e contributivo, si vedrà che questo ha funzionato e che quindi il gioco valeva la candela, e sarebbe un'operazione win-win, come dicono gli anglosassoni, dove tutti vincono i lavoratori perché hanno salari legati alla produttività, vincono le imprese perché sono più efficienti, ma vince anche lo Stato, perché a fronte di una caduta di gettito legata alla fiscalizzazione ha un aumento più che proporzionale di gettito legato al fatto che aumenta la massa occupata. Io faccio il conto che se questo fosse fatto al nord come al centro come al sud, ci potrebbero essere 2 milioni di occupati in più, non nuovi, ma semplicemente che dal nero emergono, verso emersione del lavoro nero che, come dice la parola stessa, non paga né tasse né contributi. Un'ultima domanda, e gliela giro dagli ascoltatori, perché chiaramente poi le domande stanno arrivando al 349-238-6666, e soprattutto sul ragionamento che ha fatto sulla parte premiante nella pubblica amministrazione. Le sintetizzo in una battuta: ma chi controlla il dirigente che poi deve disporre questo premio aggiuntivo? Perché le lascio stare i commenti, ma insomma è il dirigente che poi premia attualmente i suoi leccapiedi, tutti alla stessa maniera. Adesso ci sarà una legge che li obbliga a stabilire le fasce, e ci sarà un'agenzia nazionale, un'authority nazionale, che comincerà a lavorare dal mese di ottobre, che controllerà i controllori, che controllerà i dirigenti, pubblicherà le loro decisioni, e tutto sarà trasparente. Non so se si è accorto che un po' di trasparenza si è già manifestata nel settore pubblico, molta di più di quanto ci sia nel settore privato, nel senso che mese di fine luglio tutti i dirigenti pubblici hanno il loro stipendio pubblicato, il loro tasso di assenteismo, il loro numero di telefono, la loro email pubblicata su tutti i siti dei loro enti, e a settembre farò la sintesi di tutto questo. Pensi, 190.000 dirigenti della pubblica amministrazione saranno del tutto trasparenti, e quindi saranno del tutto trasparenti anche le decisioni, le loro decisioni per quanto riguarda l'ufficio X, l'ufficio Y, per quanto riguarda la premialità, e si formerà un meccanismo ovviamente virtuoso, almeno io mi auguro, comunque controllato, molto più virtuoso e molto più controllato di quanto non sia successo sino ad oggi, dove dato 100 gli incentivi venivano dati in ugual misura a tutti, in maniera tale che i dirigenti si mettevano a posto la coscienza, solo però che in questa maniera i bravi ne erano, come dire, calpestati e i furbi erano premiati. Ecco, io sto cercando di investire questo stato. Speriamo di arrivare a una maggiore efficienza anche nella pubblica amministrazione. Ho capito dal suo punto di vista invece sulle gabbie salariali che non hanno ragion d'essere. Faccio solo notare che il tema l'ha introdotto un partito politico come la Lega, non è che ci siamo messi noi a giocare sulle gabbie salariali. Altra cosa invece è ragionare sulla produttività delle singole imprese anche delle aree geografiche. Grazie al ministro Brunetta, nostro ospite in questa prima parte della trasmissione. Allora, i messaggi continuano sul pubblico impiego, ma la domanda l'abbiamo girata, non mi pare corretta, ma insomma, dal mio punto di vista, il rilievo sul siete troppo morbidi con il governo. A parte che non capisco mai la distinzione tra morbido o duro con qualcuno, fa le domande e basta, però insomma è da due giorni che ricordiamo come le gabbie salariali ci sembrino una classica polemica estiva, così, dibattito estivo, che non hanno ragione d'essere. Abbiamo sentito oggi non solo Brunetta ma anche ieri penso al presidente della Confindustria Sicilia Lobello dire che in sostanza non ha nessun senso parlare di gabbie salariali, lo stesso esponente della PDL Cazzola dire la stessa cosa. Non mi sembra che proprio ci sia tutto questo atteggiamento filo governativo, visto che la Lega è parte del governo. Dopodiché i temi sono temi. Per quello che riguarda la possibilità che si riesca ad arrivare a una meritocrazia, ai premi veri nella pubblica amministrazione, io dico semplicemente siamo d'accordo, è difficile, ci sono molti ostacoli, molti tranelli, però una cosa va detta, da qualche parte bisognava iniziare, cioè, finché i premi vengono distribuiti non ho nessun problema a dare ragione al ministro Brunetta da questo punto di vista, finché i premi vengono distribuiti a pioggia discriminando fannulloni, come li chiama lui, non discriminando tra fannulloni e stacanovisti, il metodo così non va bene. Poi vediamo se funzionerà questo, ma da qualche parte il problema andava preso. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Io ripeto, qui c'è libertà di parola per tutti e soprattutto vediamo se si riesce a trovare con dei premi sulla produttività un modo un po' più meritocratico di distribuire anche gli stipendi nella pubblica amministrazione. Secondo me il tentativo va fatto. Quanto al fatto che le gabbie salariali siano un abbaglio, mi sembra che lo stiano dicendo tutti i nostri ospiti e non li prendiamo, diciamo, nel fronte dell'opposizione. Per cui chiamiamo la provocazione della Lega, va bene. Dopodiché questo offre e questo passa il convento. Altra cosa è ragionare invece sulle diverse retribuzioni e anche produttività che può avere un'impresa nel centro-nord del paese o nel sud, se avere anche fiscalità di vantaggio e salari di vantaggio non possa essere un modo per far emergere il lavoro nero nel nostro mezzogiorno. Questi sono temi seri. Una notizia appena battuta dall'agenzia ci fa cambiare però la scaletta del programma, come ogni tanto avviene, perché il colosso bancario americano Citigroup sta crollando in borsa a Wall Street, praticamente sta perdendo il 23% ed è anche uno dei motivi per cui il Dow Jones perde l'1,1%, quindi cerchiamo anche di capire che cosa succeda sulla finanza americana. Devo dire che il meno 23% a $1,13 non si vedeva dal nefasto ottobre-settembre dell'anno scorso, quando cali come questi erano all'ordine del giorno. Temo che su fronte Citigroup ci sia anche la possibilità di una bancarotta, da quello che vedo dai flash di agenzia. Allora farei una cosa, commenterei la borsa, intanto poi cerchiamo anche di approfondire la vicenda Citigroup. 349-238-6666 per i vostri sms. Al di là del caso Citigroup, la borsa oggi vede Milano in flessione di 1,5%, Parigi meno 1,4%, Francoforte meno 2,4%, Londra meno 1,3%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. I motivi di cali generalizzati in tutta Europa, poi confermati, anzi rafforzati dall'apertura di Wall Street? Sì, infatti è stato proprio le notizie provenienti dagli Stati Uniti, soprattutto i cali che sta registrando Wall Street fin dall'apertura, fa penalizzare tutte le borse europee che in mattinata erano in lieve rialzo e poi sono girate in rosso. Da notare tuttavia che comunque la prudenza è generalizzata, dato che gli operatori iniziano a concentrarsi sulle indicazioni che potranno essere fornite domani dalla Federal Reserve quando verranno annunciate le decisioni di politica monetaria. Le flessioni accusate da Wall Street anche sulla scia del calo di Citigroup che ricordavi tu ovviamente hanno fatto scattare le vendite anche in Europa e i listini hanno chiuso sui minimi di giornata. Allora, attendo notizie su Citigroup. Io ricordo che Citigroup è praticamente negli Stati Uniti a livello privato il maggior operatore indipendente di credito commerciale, fa soprattutto prestiti per acquisti, cosiddetto credito al consumo, e insomma, ma da quello che si capisce ha avvertito che se non riuscirà entro d'agosto a raccogliere i fondi necessari, la bancarotta di Citigroup potrebbe essere un'ipotesi concreta. Tra l'altro sono anche slittata la diffusione dei dati trimestrali relativi al periodo aprile-giugno, ecco perché il 23% del calo, oltre che la minaccia di una bancarotta, ripeto, primo operatore indipendente del credito commerciale negli Stati Uniti. Paolo, noi andiamo avanti invece con le notizie della borsa italiana di oggi. I conti di Buzzi Unicem sono risultati in calo anch'essi, e il titolo è il peggiore dell'S&P MIB, meno 5, S&P MIB una volta, del FTSE MIB, meno 5,27% a 10,42 euro. Sì, esattamente, Buzzi che era più o meno in pareggio, comunque poco mossa prima della pubblicazione dei conti, ha peggiorato decisamente dopo l'annuncio dei risultati. Nel primo semestre la società ha registrato un calo del 73% dell'utile netto a fronte di un fatturato sceso di oltre il 22%, ma soprattutto ha penalizzato il titolo è stata la revisione al ribasso delle previsioni dell'intero esercizio. Buzzi ha annunciato che adesso si attende un margine operativo lordo inferiore di circa il 40% rispetto al 2008 e che in generale prevede un bilancio più sfavorevole rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. Campari è due giorni che flette, poi oggi ha ridotto il calo, ma insomma meno 2,5%. La battuta è chiara, ma non penso sia un problema di meno spritz in spiaggia. Qui c'è un giudizio non bello da parte di Deutsche Bank. Sì, esattamente, Deutsche Bank che ha oggi pubblicato un report sull'intero settore delle bevande alcoliche europee e ha rivisto al ribasso il giudizio su Campari a hold dal precedente buy. Secondo Deutsche Bank il settore dovrà cambiare molto nei prossimi anni e in particolare non potranno più essere attuate quelle politiche di prezzo che hanno garantito a molte società margini notevoli e quindi in questo caso ha rivisto al ribasso molti target, tra cui oltre quello di Campari anche quello della francese Pernod Ricard, e in particolare sulla società italiana Deutsche Bank nota che ha un'esposizione geografica la meno favorevole rispetto a quelle delle altre società del settore, di cui la revisione al ribasso del giudizio e anche dell'obiettivo di prezzo a 6,5 euro dai precedenti 7. Ancora sui titoli, bene oggi le banche, i petroliferi in calo, c'è un petrolio in flessione, Eni perde il 2%, Fiat in calo dell'1,7%, Geox dell'1,8%, Generali meno 1,90%, tra chi è più perso citiamo anche Steamark Electronics meno 3,93%, Atlantia meno 3,60%, Impregilo meno 3% come Pirelli e Italcementi, Prysmian e Telecom Italia 2,5% di calo. Dicevamo delle banche che oggi tengono, soprattutto UbiBanca più 1,8%, Monte dei Paschi più 1,3%, Terna più 1,2%, Parmalat più 1% come Mondadori, Mediobanca più 0,7%. Ancora chi scrive, attenzione, Citigroup, non confonderlo con Citigroup, è Citigroup che è il primo operatore indipendente di credito commerciale negli Stati Uniti. Non abbiamo altre notizie oltre a quelle che vi abbiamo poco fa dato. Vorrei capire come ha reagito Fiat rispetto all'annuncio che CNH, che è il gruppo Fiat, lancerà un'offerta obbligazionaria da 1 miliardo di dollari. Sì, infatti Fiat oggi pur perdendo l'1,76% ha fatto decisamente meglio del settore auto europeo, che a livello di sottoindice ha perso oltre il 2,5%, e proprio gli analisti hanno apprezzato l'annuncio di un lancio di un bond da 1 miliardo da parte della controllata statunitense CNH, perché sarà un'operazione che allevierà la dipendenza della stessa CNH dal punto di vista finanziario della Fiat, e quindi migliorerà di fatto il profilo di rischio della stessa Fiat, un movimento che è stato segnalato e confermato dal calo del prezzo del credit default swap su Fiat, e che di fatto, ricordiamo, è l'assicurazione contro un'ipotesi di fallimento di una società, che subito dopo l'annuncio del bond di CNH è sceso di 12 punti. Quindi in questa operazione Fiat potrebbe beneficiare di questa operazione dal punto di vista finanziario, e il titolo è stato premiato oggi sul mercato, riuscendo a chiudere con una performance migliore rispetto al sottoindice al settore europeo. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per l'ultima parte di Focus Economia nella versione estiva. Allora, devo riprecisare, è SIT Group. Io mi rendo conto che poi anche in radio si possa creare confusione con il colosso bancario City Group, ma è CIT Group, che comunque è il primo operatore americano indipendente nel credito commerciale. E quindi non scrivete su Citigroup o sui pericoli sul colosso bancario Citigroup. Certo è che la crisi finanziaria americana dalle banche si è spostata a tutta la parte cosiddetta più retail, si è molto temuto per le carte di credito e per tutti quegli operatori che hanno concesso tramite leasing, prestiti e quant'altro, prestiti commerciali, si sono trovate più esposte in quella che è la contrazione in questo momento dei consumi negli Stati Uniti. Meno 23% il titolo in borsa a 1,13 euro a Wall Street, perché non riesce a pubblicare, anzi ha posticipato la pubblicazione dei conti, e l'ipotesi bancarotta si farebbe più vicina, anzi più concreta, se non riuscirà entro agosto a raccogliere i fondi necessari. Dicevo del traffico aereo, ieri vi ricordavamo in apertura i dati diffusi dall'associazione che raggruppa 33 vettori europei, l'AEA, sul riempimento dei voli e sull'andamento dei passeggeri: meno 6,5% i passeggeri, un po' di miglioramento a luglio, visto che a maggio vi era stato meno 8,3%, e anche a giugno. Però il traffico aeroportuale, quindi i passeggeri che passano negli aeroporti nei primi 6 mesi dell'anno, resta come bilancio complessivo pesantemente negativo. Meno 7,5% nei primi 6 mesi del 2009, con Fiumicino che ha perso il 6,8%, il 12% a giugno. Milano Malpensa meno 16%, Milano Linate meno 16% anch'essa, Torino ha perso l'11%, Napoli il 12%, vanno bene Bologna più 5%, Bari più 6,5%, e Orio al Serio, che è l'aeroporto a Bergamo, così modello del low cost, che è cresciuto di un 4,8% nei passeggeri. Dottor Giulio Demetrio, numero 2 della SEA, che è la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, avete avuto un calo del 16% sia su Malpensa che su Linate. Un po' strano, visto che si è sempre detto che Linate comunque restava l'aeroporto più appetibile perché è un city airport, l'Alitalia ci punta molto, mentre Malpensa aveva altre difficoltà. Sì, le due percentuali hanno una lettura diversa, perché Malpensa naturalmente nel primo semestre, registrando un meno 16%, mette in conto che i primi 3 mesi del 2008 l'Alitalia era ancora presente nello scalo. Quindi, volendo misurare la performance di Malpensa in maniera omogenea, bisognerebbe farlo da aprile in poi, e da aprile in poi il confronto con l'anno scorso è molto premiante per Malpensa, perché ad aprile il traffico è cresciuto del 7,9%, a maggio intorno al 3%, giugno e luglio sotto del 2%, ma confrontandosi con una media europea ed italiana di calo a doppia cifra. Quindi, insomma, una lettura un po' più attenta del dato di Malpensa ci dice che l'aeroporto Sta migliorando molto e dopo l'uscita di Alitalia stanno crescendo molto tutti gli altri. Ma dopo l'uscita dell'Italia vuol dire grazie all'uscita dell'Italia? No, grazie all'uscita dell'Italia. Le spiego perché io adesso le farei sentire, siccome c'è stata un'intervista su Corriere della Sera a fine luglio in cui il numero uno di Alitalia, il presidente Colaninno, ha detto Malpensa così non va. Praticamente l'aeroporto non è funzionale, sintetizzo io. Ma in realtà lo stesso ragionamento Roberto Colaninno l'aveva fatto il 18 maggio nel corso di un'audizione parlamentare. Più esplicito di così, già una volta l'abbiamo fatto ascoltare, ma più esplicito di così penso non potesse essere. Io sono un affezionato di Francoforte, perché non sono mai io a Malpensa, non sono mai venuto. Perché faccio Verona-Francoforte, prendo l'Air Dolomiti, passo lì e siamo a posto. E tutti facciamo così, e siamo tutti contenti. Perché? Perché finalmente possiamo andare a Francoforte a volare. E perché Francoforte, tutto sommato, è più brava, è più bella, tutto quello che vuole. E noi stiamo lì, perché io non sono mai andato a Malpensa. Guarda. Anzi, sono andato a Malpensa quando andavo in Sud America, perché o andavo a Malpensa o andavo a Fiumicino e tutti i voli partivano da lì. Però partivo alla mattina, partivo alle 3 del pomeriggio e l'aereo era a mezzanotte la sera. E poi, come ricordava Roberto Colaninno nell'intervista sul Corriere della Sera di fine luglio, specifica da Torino Trieste, passando per Linate, c'è un aeroporto ogni 50 km. Chi abita al nord parte da Torino, da Verona, da Genova, Malpensa non andrebbe comunque. Non ci potete accusare se usiamo per grandi rotte intercontinentali l'alleanza con Air France e quindi Parigi e Amsterdam. Sembra, diciamo, un addio più che definitivo. Sì, guardi, conosciamo quelle dichiarazioni. Tanto singolare che parli di Francoforte e non di Parigi, che è l'hub dei suoi alleati. Si riferiva alla sua vita passata, immagino. Sì, probabilmente, sì, me lo auguro almeno. Perché non so. Comunque, detto questo, la presenza di Alitalia su Malpensa oramai è poco significativa. La dimensione di Alitalia pesa il 9% ormai su Malpensa, quindi è una presenza, non dico trascurabile, ma al pari di altri vettori importanti che sono sull'aeroporto. Noi tra l'altro come SEA abbiamo un po' colto l'occasione, pur dispiaciuti dell'addio all'Italia, a cui auguriamo la miglior performance possibile, anche perché è il nostro cliente affezionato su Linate, pur dispiaciuti abbiamo cercato di creare un'opportunità nel momento in cui avevamo un problema. E quindi abbiamo un po' ristrutturato il modello di business della SEA. Adesso riteniamo che, ancorché si sia in una fase sempre difficile, riteniamo di avere un modello di business più bilanciato, dove c'è l'Italia su Linate, soprattutto Lufthansa Italia sull'aerostazione principale a Malpensa e EasyJet, che ha la prima base europea oramai nel terminal low cost di Malpensa, che è come un aeroporto distinto, lontano 4,5 km dall'aerostazione principale. Quindi abbiamo un po' rivisto il posizionamento di Malpensa e di Linate e della SEA, e i risultati devo dire che sono incoraggianti, sia da un punto di vista di conto economico, sia da un punto di vista degli andamenti. Ma ce la farà Lufthansa a rimpiazzare, diciamo, tutte le perdite dell'Alitalia? Ma diciamo che è sulla buona strada, nel senso che la Lufthansa sta crescendo molto, aveva previsto di basarsi il primo anno con 6 aeromobili a Malpensa, sono già diventati 9 e le performance sono molto buone. Le posso dire che il coefficiente di occupazione ormai è al livello di tutti i suoi competitor, e essendo entrata nella nuova veste in questo aeroporto da soli 3-4 mesi a regime, riteniamo che sia una performance veramente molto buona. Sì, resta il nodo infrastrutturale su Malpensa. A che punto siamo? Ma sì, questo è un tema importante per l'aeroporto. Anche fondamentale. Sì, quasi. Fondamentale, perché l'accessibilità esterna di un'aerostazione è un tema importante. Cioè, voglio dire, andare adesso, io non voglio far polemica con voi, però insomma, andare da Roma Centro a Fiumicino, ma a un costo per tariffa fissa, Mura Aureliane, 40 euro. Su Malpensa siamo al doppio. Sì. Ma guardi, io dividerei il tema in due. Un conto sono i collegamenti con la città. Vabbè. Beh, con i collegamenti con la città mi sento di dire che siamo alle porte di un salto di qualità veramente significativo. Cioè passeremo a 120 euro? No. C'è il Malpensa Express, che oramai dalla fine dell'anno avrà frequenze dirette ogni quarto d'ora, con un tempo di percorrenza tra i 25 e i 29 minuti, adesso poi lo sapremo bene dalle Ferrovie Nord. Questo significa, ogni tanto confrontandosi con l'estero, che anche Monaco, che è un po' un aeroporto ritenuto eccellente da tutti i punti di vista in Europa, anche Monaco ha collegamenti con la città che superano i 30 minuti, quindi dal punto di vista del collegamento con la città ritengo che il problema si possa dichiarare risolto dalla fine di quest'anno, perché a quel punto, insomma, chi vuole venire in macchina può coprire quella distanza in macchina, chi vuole prendere il treno può farlo con un servizio ai migliori livelli europei. Altro tema è sicuramente più complesso, è quello dell'accessibilità dalle varie regioni e dalle altre città. Da questo punto di vista i tempi sono più lunghi, naturalmente. Registriamo però una forte attenzione sia della regione che del comune che dello Stato centrale sulla volontà di realizzare le grandi infrastrutture che si chiamano la Brebemi, la Pedemontana, la tangenziale est di Milano e tutti gli altri pezzettini di autostrada che metteranno in connessione questo sistema più ampio e genereranno quindi un sistema viario degno di questo nome e migliorando enormemente l'accessibilità a Malpensa. Beh, in bocca al lupo anche a voi, importante intanto che venga rafforzato perlomeno il servizio di navetta dalla città, mi riferisco al Malpensa Express, come lei ci ricordava. In bocca al lupo anche a voi, lo facciamo a tutti gli ospiti del mondo produttivo in questi mesi, grazie quindi a Giulio Demetrio, che è il direttore generale numero 2 della società SEA, che gestisce appunto Malpensa 1, Malpensa 2 e anche Linate. Allora, alcuni scrivono parole, in radio oltre le parole, dov'è che volete che andiamo? Importante però avere parole che annuncino qualcosa, e mi sembra che qualche notizia, qualche fatto vi fosse anche in quest'ultima dichiarazione. Molti di voi ci hanno chiesto in questi giorni di tornare su una delle misure, nemmeno la principale, devo dire, del decreto anticrisi, mi riferisco al condono sulle multe. Allora, qui devo dichiarare un conflitto di interesse, forse il primo nella storia di questo programma, da parte del per loro. Abbiamo delle multe e delle carte elettorali. Questo per chiarire, dare delle risposte agli sms. È veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata.